sugira un re e fracassando i ragazzi è un altro brutto. Allora, tutto va a prendere, tutto va a fare quasi, e ci arriva la bufera.